ricerca, altrimenti, la causa dell'altro è la ricerca di un senso comune nelle diverse esperienze di soggettivazione politica. È il titolo della relazione di Riccardo Ciavolella, a cui do la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere qui e al tempo stesso mi sento un po' a disagio e vi spiego perché. Perché forse vi presento qualcosa che è un po' in dissonanza con quello che è stato presentato nella giornata. Perché io vi sembrerò forse un antropologo un po' polveroso del XX secolo, qualcosa di molto vecchio, perché sono africanista, faccio ricerca in posti lontani e quindi oggi vorrei riflettere sulla questione di un'antropologia, cioè chiedermi se è possibile un'antropologia militante, quando in realtà la mobilitazione politica, il movimento sociale di cui stiamo parlando è dell'altro. Certo, oggi non possiamo più riflettere a queste parole dell'alterità assoluta, siamo tutti d'accordo. Però tu, Vincenzo, parlavi prima di le concezioni del mondo gramsciane che non esistono più, io di concezioni del mondo diverse ne ho anche viste. E ci sono mobilitazioni sociali e politiche che si basano magari su concezioni del mondo alternative. In che modo fare antropologia dell'altro può portarci anche, può insegnarci qualcosa sul modo in cui possiamo concepire l'utilità politica o la funzione politica e pubblica dell'antropologia. Allora, io ho lavorato su popolazioni di origine nomade pastorale in Africa, quindi qualcosa di molto lontano dai movimenti sociali che siamo abituati a studiare oggi in antropologia, ma questo tipo di riflessione, mi direte voi se è una forzatura, mi sembra comunque importante per una ragione in particolare. Oggi, nel confronto tra antropologia politica e teoria critica, teoria dei movimenti sociali, c'è una questione che è al cuore del dibattito, nella mia visione, ed è la questione della frammentazione, della frammentarietà delle lotte politiche. Siamo in una fase, lo sappiamo perfettamente, non esiste più un soggetto universale marxista, ci sono tante forme di mobilitazione politica, tante forme di manifestazione, di contestazione locali, per cui i soggetti politici sono frammentati. Il mio problema è, possiamo concepire forme di traduzione e quindi anche di alleanza tra queste forme di lotta? Secondo me questa è una questione antropologica molto importante, forse l'antropologia è proprio una delle discipline che è meglio predisposta a riflettere a questa questione della traduzione, no? Pensate, non so, tutte le teorie, ad esempio, di Toni Negri sulla moltitudine, no? Sulla frammentarietà del soggetto politico, ma al tempo stesso oggi si pone la questione di sapere come creare legame, stiamo combattendo la stessa battaglia, la stessa lotta oppure no. La mia forse è una provocazione. Andiamo a vedere veramente nella differenza, nell'alterità, quale tipo di lotta politica stanno combattendo e vedere che cosa ci può essere di comune. Insisto su questo concetto di comune, non soltanto facendo riferimento a tutto il dibattito sui beni comuni, ma facendo riferimento a Gramsci, torno ancora una volta a quello che hai detto tu, al concetto gramsciano di senso comune. Cioè, come fare del buon senso politico di tante lotte frammentate nel mondo, fare un senso comune, cioè qualcosa che ci accomuna, un significato nella lotta politica che ci sia comune. Allora, io ho lavorato, vi dicevo prima, su popolazioni pastorali di origine nomade in Africa e mi sono ritrovato prima di tutto a fare un'etnologia che potremmo definire un po' vintage, cioè fare relazioni di parentela, organizzazione politica, qualcosa insomma che si faceva altri tempi. Mi sono divertito tantissimo, è stato bellissimo a farla e fortunatamente ho trovato anche qualche antropologo di rilievo internazionale che ha, come dire, questa prospettiva. Penso ad esempio all'antropologia anarchica di un James Scott, che fa un'analisi delle forme di resistenza politica di popolazioni marginate, subalterne, eccetera, però al tempo stesso fa un'analisi, fa un'astrazione teorica a partire da queste considerazioni. E se pensate, non so, al testo di The Art of Not Being Governed sulle popolazioni dell'Asia, dell'Asia, la sua intenzione è anche quella di riflettere a quello che queste popolazioni ci possono dire sul politico oggi. Allora, io mi sono ritrovato, lo sapete tutti, popolazioni nomadi pastorali, nella tradizione filosofica il nomade visto come un po' l'emblema dell'autonomia politica e della libertà. In parte è vero, nella tradizione di queste popolazioni hanno sempre vissuto ai margini dello Stato e attraverso forme di resistenza hanno saputo conservare questa autonomia. Forse però l'hanno persa recentemente, negli ultimi decenni, quando queste popolazioni in Africa occidentale sono state integrate, quelli che tu chiamavi lo Stato e il mercato. Non sono più alterità assolute rispetto alla, diciamo, a quella che veniva chiamata la modernità, per cui quella che per loro era prima un'autonomia è diventato come un peso, un fardello, perché spiega quella che è la loro emarginazione all'interno degli stati postcoloniali africani oggi. Io quindi ho cercato di studiare in Africa occidentale le forme infrapolitiche di resistenza di queste popolazioni emarginate. Dovete pensare, sono per la più parte analfabete, non hanno accesso al mercato, non hanno rappresentanti politici. Quindi la questione dell'infrapolitica, delle loro forme di resistenza, dei loro discorsi nascosti per criticare il potere mi sembravano molto importanti, ma al tempo stesso mi sono interessato a delle forme embrionali di mobilitazione politica e di azione collettiva, che mi sembrano molto significative proprio perché si manifestano in popolazioni che sembrano incapaci di farlo. Cioè, quindi porre la domanda della possibilità del politico, della politicizzazione, dove in realtà non ce l'aspettiamo, in questi gruppi che sono i più emarginati. Allora, queste forme di mobilitazione politica, io non posso entrare nei dettagli etnografici perché mi porterebbe lontano, ecco. L'unica cosa che voglio dire è che queste forme di azione politica e di mobilitazione si traducono spesso in forme di associazionismo che insistono molto anche sulle questioni identitarie, etniche, ma che hanno come obiettivo la costituzione di solidarietà sociali, il loro rinforzo e la presa di parola nel campo sociale e politico degli stati postcoloniali. E alcuni hanno addirittura tentato di partecipare direttamente alla politica, cioè ci sono alcuni intellettuali che si sono fatti portavoce di questi gruppi e hanno cercato di integrarsi, di inserirsi nel dibattito politico. Io mi sono chiesto, per venire alla questione fondamentale, in che modo si può trovare un senso comune tra la loro esperienza di mobilitazione politica e ad esempio la mia. Perché? Perché chiaramente io non sono inserito completamente in quella realtà. Io non ne faccio parte completamente, anche dai locali, diciamo, sono visto come uno straniero. Eppure il fatto di avere fatto campo con queste persone per tanto tempo, di avere creato anche delle relazioni personali, mi porta in qualche modo ad integrarmi in quella realtà e a sentirmi anche responsabile con il mio stesso lavoro di quello che sto facendo. Però rimane il problema di sapere in che modo stiamo combattendo la stessa battaglia, o sono io responsabile di questo tipo di mobilitazione politica. E ho cercato di individuare quali potrebbero essere le risposte per trovare un senso comune a queste battaglie. La prima idea che mi è venuta in mente è pensare che viviamo nello stesso mondo, per cui le lotte che si manifestano tra i pastori nomadi dell'Africa occidentale in realtà sono reazioni a cose molto simili che anche noi viviamo, chiamiamolo ad esempio capitalismo globale. In questo senso io mi sono interessato ad esempio alle forme di resistenza a alcuni fenomeni del land grabbing di terre pastorali, cioè quando il capitale finanziario arriva a terra in Africa occidentale, arrivano nelle campagne africane e dicono: questa terra è nostra, e i pastori che ci sono sopra vengono buttati fuori da questa terra. Lì si potrebbe trovare un punto di comunanza nella lotta politica, perché in fin dei conti siamo all'interno di uno stesso processo. Però è anche vero che tutte le forme di mobilitazione politica di questi gruppi non si esprimono come reazione nei confronti del capitalismo o della globalizzazione, quindi di qualcosa che potrebbe essere comune a noi. Spesso sono nei confronti degli stati locali, delle forme di discriminazione, di persecuzione che questi gruppi subiscono, non entro nei dettagli. Bisogna pensare, dirò soltanto che questi sono gruppi che sono esclusi addirittura dal rapporto clientelare che gli stati dell'Africa occidentale hanno istituito come forma di governamentalità. E vi ricordo che la corruzione, per restare nella terminologia gramsciana, può essere considerata come una soluzione intermedia tra il consenso e la coercizione per istituire un rapporto egemonico tra la società politica, cioè lo Stato, e la società civile. I gruppi di cui parlo sono addirittura esclusi da queste forme di redistribuzione, soprattutto economica, a cui partecipano altri gruppi, quindi sono veramente emarginati. Ebbene, quando assistiamo a dei processi di mobilitazione politica, dei tentativi di presa di parola politica di questi gruppi, assistiamo a che cosa? Beh, non all'elaborazione di progetti politici o di ideologie, ad esempio gramsciane, nelle quali io stesso potrei riconoscermi. Senza volere fare dello strumentalismo, però sono iniziative politiche che hanno come intenzione, come obiettivo, quello di partecipare allo stesso sistema di redistribuzione delle risorse. Non si tratta di trasformare il sistema politico stesso, non c'è un'intenzione rivoluzionaria di sovvertimento della situazione. Però tutti sappiamo che i movimenti sociali e i tentativi di partecipazione politica hanno una memoria. Perché dico questo? Perché io ho studiato questi tentativi di partecipazione allo Stato di questi gruppi nel corso degli anni 2000 e mi rendo conto che negli ultimi anni c'è qualcosa che è cambiato. Perché? Perché questi gruppi hanno avuto l'esperienza della delusione dei loro tentativi di integrazione allo Stato. Cioè il fatto di aver provato a partecipare a questa politica clientelare degli stati africani, di non essere riusciti ad integrare queste logiche clientelari redistributive, fa sì che ora queste iniziative politiche, che sono ancora allo stato embrionale, cercano forme alternative di mobilitazione politica e lo fanno al di fuori, pensando a forme di organizzazione al di fuori delle istituzioni. Questo mi sembra molto interessante perché nei loro discorsi, almeno degli intellettuali che si fanno promotori di questi movimenti, c'è un ritorno all'idea di autonomia, che è la vecchia autonomia del nomade tradizionale. Però questa autonomia è intesa come un'autonomia della società civile rispetto alla politica istituzionale. Anche qui però trovo un problema, uno spirito un po' anarchico che è in me, anche se non troppo, e che alcuni lo sanno, però questo spirito anarchico che è in me mi fa apprezzare il concetto di autonomia. Però il problema qual è? Che questi movimenti politici sono spiegabili attraverso la teoria del riconoscimento più che attraverso teorie anarchiche. Che cosa intendo? Questi gruppi, pur rivendicando autonomia rispetto allo Stato e all'istituzione nelle loro iniziative politiche, cercano di avere nel campo sociale e politico, nell'arena politica locale, il riconoscimento del loro Stato di vittime o di gruppi emarginati, e in quanto tali vogliono avere o giocare un ruolo, essere riconosciuti dalle autorità per fare che cosa? Dunque per partecipare allo stesso sistema che fino adesso li ha discriminati. Anche qui non siamo in una prospettiva di rivoluzione, di trasformazione sociale del sistema. Il problema qual è? Che quando parliamo di politica del riconoscimento è spesso una politica identitaria. Questi gruppi rivendicano il loro posto nella società, agli occhi dello Stato, in quanto gruppi emarginati, rivendicando un'identità spesso etnica particolare. E qui arriva il ruolo dell'antropologo militante, che diventa molto complicato. Perché? Perché nelle mie esperienze in Mauritania e in Benin, dove ho compiuto la maggior parte delle mie ricerche sul campo, il mio lavoro etnografico sta diventando materia per questi gruppi nella loro politica di riconoscimento. Cioè, ad esempio, in Mauritania un libro scritto in francese, che a Parigi non ha letto assolutamente nessuno, e in Africa, appena pubblicato e finito su Google Books, c'è uno dal villaggio che mi scrive, che mi dice: no, guarda, pagina 400 è scritto quella cosa, non è vera. Quindi è stato subito recuperato dalle persone di cui parlo, ed è diventato praticamente il libro di questo gruppo, che ora può dire: guardate, noi siamo emarginati. C'è addirittura l'antropologo che l'ha detto, no, è certificato, quindi c'è l'antropologo che l'ha detto, che noi siamo emarginati, quindi nella loro politica del riconoscimento. Quindi che cosa significa? Che io, arrivato in questi posti con uno spirito di militante, forse dicevo XX secolo, si chiamava terzo mondismo, no? Mi sento terribilmente vecchio oggi a parlare di queste cose. Arrivo e che cosa succede? Che il mio lavoro di antropologo in realtà ha una vita autonoma dopo di me. Cioè, nel senso, quello che io produco poi viene riutilizzato dai movimenti sociali, dai movimenti politici locali, in maniera che io non posso controllare. Da una parte sono molto contento, perché significa che c'è un impatto, una funzione di quella che io ho. Però torno alla domanda dell'inizio. Io sto costruendo, in qualche modo sto partecipando a una lotta politica, mio malgrado probabilmente, ma in parte ne sono anche contento e felice. Ma ritorno alla mia questione, la mia domanda fondamentale a cui volevo trovare una risposta per questo intervento, ma non l'ho trovata: come creare quindi un senso comune tra quella lotta e la nostra? Non ho il tempo di una frase. Mezza frase. Forse tornando a Gramsci, è l'idea che non soltanto le culture subalterne possono offrirci esempi di sovversione culturale rispetto alla cultura egemonica, ma questi esempi di sovversione culturale devono essere portati a un altro livello di scontro, un altro livello di formulazione teorica. Ed è forse questo il senso comune che noi dovremmo creare per dare appunto un senso a tutte le battaglie differenti di cui noi qui parliamo. Ringrazio.